Siamo qua con la professoressa Scrollavezza per la prima giornata di inaugurazione della nona edizione del Nippon Festival. Cosa ci presenterà in questa prima giornata e soprattutto cosa si mangerà di buono? Questa prima giornata, allora, è già cominciata con una tavola rotonda che ha visto in realtà come protagonista principale Otto Capos, perché, come ho detto anche durante l'inaugurazione, ormai ho ripetuto tante volte, in realtà la base di Nippop c'è l'idea di parlare di cultura giapponese, ma di mettere in evidenza anche quelle che sono le contaminazioni e le relazioni con la cultura italiana, gli scambi che ormai sono sempre più frequenti. Quindi noi da sempre diamo spazio appunto anche ad artisti, soprattutto italiani, in particolar modo bolognesi, visto che Bologna offre molto dal punto di vista delle culture pop in termini di creatività. La giornata proseguirà poi nel pomeriggio alle 2:30 con l'incontro con Ogawa Ito. Ogawa Ito è una delle nostre ospiti appunto di punta, scrittrice giapponese molto famosa a livello internazionale soprattutto per il suo romanzo Ristorante dell'amore ritrovato. Sarà con noi per tutte e tre le giornate del festival. Oggi appunto un primo incontro in cui parlerà del suo lavoro con me e con Gianluca Coci, che è il suo traduttore italiano. Poi sarà protagonista nei prossimi giorni di altri appuntamenti, anche in conversazione con Yochi, che è un'illustratrice giapponese che ha firmato molti libri illustrati pubblicati da Corraini, molti sul cibo italiano, sul cibo giapponese e oltretutto per alcuni anni ha tenuto una striscia internazionale. Yochi è giapponese ma vive nei pressi di Bologna, un'altra contaminazione, ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti di Bologna e così via. Poi la giornata di oggi invece sempre proseguirà con l'appuntamento con Stefania Viti, giornalista e scrittrice che ha dedicato molti libri ormai alla cucina giapponese e alla cultura del cibo giapponese, il libro sul ramen, il libro sul sushi e più recentemente il libro sul sake e gli spiriti giapponesi, e poi con Estem è una giovane mangaka giapponese che ospita appunto anche lei per le tre giornate di Nippop, quindi sarà protagonista poi di altri appuntamenti e di altri incontri con il pubblico. Oggi introdurremo il suo lavoro, in particolar modo il suo lavoro pubblicato da Dinit Manga che si intitola La donna degli udon, quindi cibo e storie in questo caso sentimentali. Siete partiti dai locali insomma del quartiere Santo Stefano, siete arrivati al Baraccano e quest'anno vi siete espansi, siete arrivati fino ai Lunetta Gamberini per la giornata di anteprima con il concerto dei appunto tamburi. Come è avvenuta questa espansione? Ma l'espansione diciamo che è avvenuta naturalmente. In realtà questo è un progetto che è iniziato 9 anni fa nelle aule dell'università, durava mezza giornata e poi pian piano è cresciuto. In realtà è cresciuto grazie proprio all'entusiasmo, alla partecipazione, soprattutto dei miei studenti in primis e poi anche del pubblico. E in realtà devo dire che l'incontro poi con il quartiere Santo Stefano, il nostro dipartimento si trova fra l'altro all'interno del quartiere Santo Stefano, e con appunto l'attuale presidente Rosa Maria Vorevole è stato sicuramente un ottimo incentivo per un allargamento e per un ampliamento. Quest'anno abbiamo appunto voluto proporre un'anteprima il 14 maggio con un concerto di tamburi tradizionali taiko che ci saranno fra l'altro anche stasera invece al Teatro del Baraccano, e il concerto è andato molto bene, è stato un concerto all'aperto, il tempo ci ha graziato con una giornata non piovosa e la risposta del pubblico è stata veramente anche oltre le nostre in realtà aspettative, perché essendo la prima volta che proponiamo una cosa del genere in un contesto che è completamente diverso, invece devo dire che è stato bello proprio perché in realtà a parte le persone che sono venute perché avevano letto e quindi sono venute di proposito, però proprio il pubblico che si è raccolto spontaneamente, che andava dai bambini per arrivare fino alle persone anziane, però è stato veramente un bel momento. L'ultima cosa devo dire che mi ha colpito molto la grande partecipazione di giovani della mia età, è veramente pienissima quest'aula di ragazzi che partecipano molto attivamente a questo progetto. Com'è questo rapporto? Come ho detto anche prima durante l'inaugurazione, questa è la cosa più bella dell'esperienza comunque di Nippop, e proprio vedere come i ragazzi, molti sono miei studenti, e come i ragazzi partecipano e lavorano per la realizzazione di questo progetto. Appunto, il progetto è nato comunque all'interno dell'università, poi da questo progetto è nata un'associazione culturale, che è un'associazione no profit, in cui tutti lavoriamo come volontari, e il mio staff è composto tutto da ragazzi giovanissimi, fatta eccezione per me e per un paio di mie colleghe più giovani. E i ragazzi veramente lavorano con un impegno, un entusiasmo e una generosità che sono una grande consolazione e nello stesso tempo una grande spinta ad andare avanti. Comunque hip hop significa un anno di lavoro, in realtà noi già da fra un paio di settimane cominciamo a lavorare per l'edizione dell'anno prossimo, visto che comunque siamo intenzionati a continuare, oltretutto sarà il decennale. Veramente quindi è un impegno costante, non è solo l'impegno delle tre giornate o dell'ultima settimana, e anche tutto il lavoro che noi facciamo sui social. Abbiamo un sito web dedicato all'evento, un sito web più generale dedicato alle culture pop, poi appunto i social, Instagram, Facebook, Twitter, è tutto fatto dai ragazzi. Ricordiamo che fino a domenica sarà ricchissimo questo festival di appuntamenti, grazie a questo punto. Grazie a voi, grazie davvero per lo spazio che ci avete dedicato.